Radio 24. Libera la voglia di fare. Fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno a tutti, 7:33 minuti. Buongiorno da Alessio Maurizi. Ecco qua, scusate, cominciamo male. E allora, tra poco cominciamo con una rassegna stampa, un'occhiata al giornale di oggi e poi via verso il giornale radio delle 8, poi staremo in compagnia, in nostra compagnia, in vostra compagnia fino alle 10 con Si può fare il weekend del sabato alla domenica mattina, che riprende oggi dopo la pausa di questi giorni di vacanze, dopo che ci siamo sentiti invece in diretta nelle puntate serali. Allora, cominciamo, vi ricordo anche i nostri contatti 349-238-6666 per commentare in tempo reale la rassegna stampa, ma anche la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24 e poi i soliti account su Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Iniziamo, vai. Allora, cominciamo con i principali titoli dei giornali di oggi. Notizia che quasi tutti riportano è l'incontro tra il presidente, futuro presidente americano eletto, nominato, insomma già quasi in carica, Donald Trump, e l'intelligence, la CIA, sulla questione dell'hackeraggio russo. E poi notizie invece sparse che riguardano il nostro paese, l'emergenza maltempo, ma anche l'espulsione di potenziali terroristi e una intervista importante di Gabrielli, capo della polizia, sul giornale. L'ISIS stava per colpirci e prima o poi lo farà, dice appunto il capo della polizia in questa importante intervista. Il saluto di Obama e Michelle, l'ultimo saluto al popolo americano, ma ci sarà in realtà martedì a Chicago il comizio di addio, ma insomma ieri è stata la volta di Michelle Obama, che ha tenuto appunto un piccolo comizio di fronte a una platea femminile. Cominciamo però con il Corriere, titolo principale, dicevamo, sulla questione dell'hackeraggio, il rapporto degli hacker russi che avrebbero sostenuto, hanno sostenuto, cercato di sostenere, di interferire nelle elezioni americane sostenendo Donald Trump. Le prove degli 007, Putin ordinò di aiutare Trump. Il neopresidente ammette possibile un ruolo tra gli hacker. I capi dei servizi segreti americani ieri pomeriggio, scrive il Corriere, si sono recati a New York alla Trump Tower per illustrare al neopresidente le prove sulle interferenze degli hacker russi sul voto americano. Trump ammette lo spionaggio ma non le interferenze, e via di questo passo su Repubblica. La CIA, Putin diede l'ordine, aiutate Trump a vincere. La coda con la fotonotizia di Michelle Obama in lacrime di commozione, il lungo addio di Obama con le lacrime di Michelle, che ieri si è commossa durante l'ultimo discorso alla Casa Bianca davanti a un pubblico di donne. La stampa scrive di 007, Putin ordinò di influenzare il voto, ma Trump dice nessun effetto sul voto, è una caccia alle streghe politica ordita dai miei avversari, l'agenda del presidente eletto nei suoi tweet. E andiamoli a vedere allora questi tweet, questa agenda di Trump. La stampa ha voluto in qualche modo rintracciare tra gli ultimi tweet di Donald Trump, come si fa oggi con questa comunicazione rapida, veloce, fatta di annunci, ma che in qualche modo poi delineano anche quelli che sono gli impegni presi, perché quando scrivi un tweet e ti seguono un milione di follower poi diventa difficile cancellarlo, anzi in realtà non si può proprio cancellare, quindi diventa poi una promessa in qualche modo marchiata col fuoco. Allora, a proposito per esempio delle armi atomiche, tanto per iniziare belli leggeri, gli Stati Uniti devono rinforzare e ampliare il proprio potenziale nucleare finché il mondo non rinsavisce riguardo alle testate nucleari. Questo Trump. Poi ancora su un altro tema caldo come quello della riforma sanitaria, l'Obamacare voluto da l'ex a questo punto presidente, insomma manca poco, il presidente uscente Obama, l'Obamacare, dice Trump, garantisce l'assicurazione gratuita agli immigrati clandestini, polemico naturalmente, e prosegue, ma Obama sta tagliando l'assistenza sanitaria ai nostri militari e ai reduci, è un oltraggio, e quindi si annuncia un tentativo, una riforma insomma del sistema sanitario introdotto da Barack Obama. Poi vabbè, un altro classico è l'attacco alle Nazioni Unite, dice Trump, sono soltanto un club dove la gente si trova a far chiacchiere e a divertirsi, l'ONU questo. Poi la questione del protezionismo delle aziende americane e l'attacco alle aziende straniere, Toyota, dice in un altro tweet Trump, dice che costruirà un nuovo impianto in Messico per produrre le auto Corolla per gli Stati Uniti. Assolutamente no, punto esclamativo, fate la fabbrica negli Stati Uniti o pagherete una tassa più alta. E queste sono alcune delle, delle esternazioni. Poi vabbè, c'è il classico autoesaltazione trampiana, da quando la star di America's Got Talent Evancho ha accettato di cantare per me, le vendite del suo album sono salite alle stelle. E va bene. Poi dicevamo del saluto di Michelle Obama ieri alla Casa Bianca, un saluto, scrive sempre la stampa, che un messaggio che però suona tanto come un arrivederci, chissà che possa essere lei la futura una delle possibili candidate democratica alla presidenza. Intanto lei lascia le donne che l'hanno tanto sostenuta, a cui lei ha dedicato tanta attenzione, così: voi contate, rimanete determinanti, pieni di speranze, puntate all'istruzione per sentirvi in controllo e utilizzatela, io sarò con voi per il resto della mia vita. Cioè quasi una promessa da parte di Michelle Obama sul suo futuro e quindi su un possibile ruolo politico suo. E allora, poi che altro, sempre su questo tema, torniamo sul Corriere, rimanendo sempre sulla notizia, le prove degli 07, Putin ordinò di aiutare Trump, vediamo un po' che è successo ieri, dopo tante schermaglie è arrivato il giorno del grande faccia a faccia tra il nuovo presidente americano Donald Trump e i capi dei servizi segreti americani, che ieri pomeriggio si sono recati a New York, alla Trump Tower, per illustrare in un rapporto destinato a restare segreto tutto ciò che l'intelligence ha scoperto sulle interferenze degli hacker russi nel processo elettorale americano. Ebbene, che cosa è stato scoperto dall'intelligente intelligence americana? È questo. Secondo le agenzie di sicurezza, il presidente russo Putin e il suo governo hanno direttamente ordinato una campagna per sostenere l'elezione di Donald Trump, quando possibile screditare la sfidante Hillary Clinton. A sua volta, Trump ha ammesso per la prima volta la possibilità che i russi abbiano hackerato obiettivi americani, ma questo è appunto, diciamo, la diga messa lì da Trump, come dire, che la Russia abbia provato a condizionare le elezioni può darsi, dice Trump, ma non ci sono stati assolutamente effetti sul risultato delle elezioni, ha precisato il presidente eletto. Quanto invece a possibili reazioni americane a questo di fatto tentativo, a questa guerra di spionaggio ordita dai russi, non è una novità che Russia e Stati Uniti si spino tra di loro e che probabilmente provino vicendevolmente ad influenzare le politiche nella direzione sperata. Tutti gli stati hanno un intelligence e servizi segreti da questo punto di vista, ma insomma, scrive ancora il Corriere della Sera e cita un senatore repubblicano, attenzione, non un democratico ma un repubblicano, cioè un che sta dalla parte di Trump, quindi Trump dovrà forse fare i conti anche col Congresso, col Senato a maggioranza repubblicana, ma dove potrebbe esserci una maggioranza che non sostiene la sua politica di riavvicinamento con Putin, che, tanto per dirne una, ma perché? Perché questo Lindsey Graham esprime il sentimento anche di altri e dice: bisogna tirare un masso contro gli hacker russi e non il sassolino lanciato da Barack Obama con le sanzioni sui 35 diplomatici di Mosca. Allora, bisogna vedere se nella politica americana, prosegue il Corriere, ci sarà un accordo su che cosa debba essere questo masso, ammesso finora e non concesso che il nuovo presidente Trump sia d'accordo. È complessa la vicenda, ma insomma ci sono delle opzioni sul tappeto. Cosa può fare l'America per controhackerare la Russia? La prima opzione è sottrarre informazioni riservate sul presidente Putin, per esempio eventuali movimenti finanziari sospetti che dimostrano il coinvolgimento personale di Putin negli affari di Stato. E c'è tutto il tema dei Panama Papers. E poi l'altra questione è che i servizi segreti potrebbero, americani, organizzare incursioni informatiche nelle centrali elettriche, nei sistemi che controllano il traffico aereo e ferroviario, insomma mettere fuori uso le infrastrutture vitali del paese. Stiamo parlando di fanta spionaggio, di fanta hackeraggio, di fanta politica, però tanto fanta non è, anche perché è già accaduto in passato. E Obama, prosegue il Corriere, teme tra l'altro possibili contro rappresaglie di Putin, perché il leader russo ha già dimostrato di non avere problemi a ordinare azioni di vero sabotaggio anche lui nei confronti, per esempio, quando nel dicembre 2015 nei confronti dell'Ucraina gli hacker del servizio di Mosca si sono impadroniti di alcune centraline delle dorsali elettriche dell'Ucraina, lasciando al buio circa 80.000 cittadini. E insomma, questo sono gli scenari che in qualche modo forse ci aspettano russi e americani. Allora, altri titoli, altre notizie, per esempio, intanto dicevamo la questione dell'emergenza freddo, l'emergenza maltempo, ahimè siamo di nuovo a un'altra emergenza, però ci sono già delle vittime tra dei clochard senza tetto, 5 vittime di cui 4 senza tetto, scrive il Corriere. La bufera che divide l'Italia, emergenza per i senza tetto, temperature polari, bufere di neve e vento su buona parte del centro-sud, collegamenti a singhiozzo con le isole e circolazione ferroviaria in difficoltà, codice rosso in particolare sull'autostrada adriatica, la A14. Allora, vediamo un po', intanto per oggi sono attese nuove nevicate e un ulteriore abbassamento delle temperature. Vediamo un po' di che si tratta. Allora, intanto le regioni coinvolte da questa dall'ultima allerta della Protezione Civile sono l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Poi il clima che cambia così in fretta, da temperato a gelato, siamo appena usciti da un dicembre con temperature molto alte, molto sopra la media in Italia, al Polo Nord, i ghiacciai che si sono sciolti, eccetera, adesso arriva una botta di freddo, credo che sia anche normale, anzi forse giusto, auspicato. Infatti tra le cose positive di questa botta di freddo che intanto il vento ripulisce l'atmosfera dagli inquinanti, scrive il Corriere. Perciò da questo punto di vista possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, meno smog, per esempio a Milano è così. Un altro effetto positivo riguarda le precipitazioni, fino ad ora sono state scarse e invece sta piovendo e questo fa bene alla campagna. Poi l'altra particolarità è questa, una peculiarità attuale è che l'Appennino si sta imbiancando, cioè piove, nevica quindi sugli Appennini, e invece sulle Alpi, in montagna, la montagna vera, la neve continua a farsi desiderare. Ultima coda per quanto riguarda questa tematica è, ahimè, la questione dei terremotrati nelle Marche e non solo, ad Amatrice, meno 18 gradi, e la storia di Marina che vive in roulotte, freddo e paura, ma restiamo qui. La foto di Marina che vive nella sua roulotte dal 24 agosto scorso, il giorno del terremoto, con i due figli, Francesco e Benedetta. Suo marito è morto sotto le macerie. La situazione, dice lei, è tragica, fa troppo freddo, non riusciamo a dormire, ci mancava pure la bufera. Una situazione che fa dire, poi adesso ci arriveremo agli altri giornali, fa dire al Libero: terremotati a meno 20, immigrati al caldo, gelo e ingiustizie. Questo è il titolo di Libero. Traffico tra poco. E allora, stavamo dicendo di come sui giornali si fa la cronaca di questa bufera che si è abbattuta sul centro-sud, freddo e 5 vittime, tra cui 4 senza tetto. La situazione in particolare che preoccupa è quella dei terremotati, naturalmente, che insomma, vivono una condizione di estremo disagio con questo inverno. E il punto, situazione che fa scrivere al Libero in prima pagina il titolo Gelo e ingiustizie, l'ho già letto, lo ripeto, terremotati a meno 20, immigrati al caldo, i profughi spendono una fortuna per arrivare qua perché sanno che li tratteremo da nababbi, scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Non si trova invece una sistemazione decente a chi ha perso la casa, anche se sbaglia a restare lì, scrive in prima pagina Libero. 200 terremotati dell'Appennino passano le notti a meno 14 gradi, mentre 200.000 extracomunitari sbarcati sulle nostre coste quest'anno se ne stanno quasi tutti al caldo negli alloggi che abbiamo provveduto a recuperare loro. L'impressione potrebbe essere che lo Stato si occupi più di chi qui è arrivato ieri rispetto a chi qui ci è nato e da una vita ci paga le tasse. Forse non è così, ma poco ci manca. Che altro? Stacchiamo dalla cronaca, andiamo, vediamo la fotografia economica della giornata di ieri, la situazione economica con il Sole 24 Ore, che titola con la crescita dei salari americani spinge dollaro e Wall Street, piazza affari positiva trainata dal balzo di Fiat, retribuzioni più 2,9%, 156.000 posti di lavoro in più. Parliamo degli Stati Uniti. Poi l'altro titolo riguarda invece la vicenda Mediaset, con il titolo Mediaset all'Agcom bloccare la quota di Vivendi del gruppo francese. Mediaset ha chiesto all'Authority per le comunicazioni di bloccare la scalata di Vivendi perché è contraria alla legge anche nella posizione di secondo azionista. L'Authority delle comunicazioni farà il punto a metà della settimana prossima nella prima riunione dopo l'avvio dell'istruttoria. Poi c'è da ci sono naturalmente altre notizie, però intanto Sulla stampa c'è il titolo principale nasce da un'inchiesta fatta a Domenico Quirico sugli aspiranti terroristi che bazzicano l'Italia. Mi hanno reclutato nelle carceri italiane per fare il terrorista. Uno spacciatore tunisino in cella per tentato omicidio dice: io jihadista, grazie a un egiziano, sapeva tutto di me. Le vostre guardie pensavano stessimo soltanto pregando. Allora, leggiamo qualche passaggio perché è molto, ahimè, istruttivo. L'uomo che racconta questa storia, scrive Quirico, l'ho incontrato in un viottolo di campagna vicino a Sousse, in Tunisia. Ulivi, terra e cielo, nessuno che potesse ascoltare. Abbiamo parlato in un furgoncino bianco che odorava di cipolle. Precauzioni. L'uomo è tunisino, come il terrorista di Berlino. Racconta di prigioni italiane e di conversioni. Terribili assonanze. Forse il segreto della jihad sanguinaria non era in Siria o nei deserti, ma qui, sotto i nostri occhi ciechi, scrive Quirico. Arriva al punto. Il reclutatore era un egiziano, aveva braccia pesanti come clave, mani curate, baffi tagliati come usano i salafiti, i radicali di Dio. Non c'era in lui alcuna traccia di senilità, la voce magica ti faceva diventare un uomo, sapeva tutto il Corano e gli hadith profetici e la sunna. Qua a raccontare è il tunisino che è stato reclutato da questo egiziano. Ci raccontava storie di quando l'Islam conquistava il mondo, dei califfi che sbaragliavano i nemici come se fossero polvere nel deserto. Mi sentivo esaltato, ispirato, arricchito di minuto in minuto da un racconto all'altro. Gli dicevo: queste storie non le dimenticherò mai. Eravamo in tanti in quella sezione del carcere, tunisini, qualche algerino. Il reclutatore a un certo punto dice che la religione vera non è quella che abbiamo imparato da piccoli, che siamo nati per una missione, per combattere, per il profeta. È la jihad della comunicazione questa, la jihad della parola più efficace delle bombe. Poi si intrecciano altri temi, come per esempio le mance, i soldi che questo egiziano riusciva a far avere ai suoi reclutati e i quali poi si acquistavano anche droga o alcol, perché in carcere funziona anche così. Offre buoni piatti di cibo, regali, soldi non mancano, accrediti postali da spendere allo spaccio interno che non destano sospetti. Poi ci sono i telefonini dal carcere, i reclutatori, quelli che assoldano i terroristi, sono in contatto continuo con i loro confratelli per avere i telefoni, corrompono una guardia o qualche volontario ingenuo di buona volontà, dicono devo chiamare la mia famiglia, non li sento da anni, e con il telefono poi fai tutto. Ma se ti opponi, se sgarri, c'è la violenza. Un giorno all'inizio dovevo incontrare il mio avvocato prima di andare in parlatorio, bevo due sorsi di vino di Tavernello, sulle scale incontro il predicatore, il mio reclutatore, lui scende, io salgo, mi chino per omaggiarlo, lui sente l'odore del vino, miscredente, mi dice infame, attento a non rifarlo, mi hanno picchiato, non so come sono rimasto vivo. E questo è il racconto di come si viene reclutati nelle carceri italiane, e credo anche non solo, da parte di questi predicatori di violenza di matrice islamica, che poi reclutano personaggi come questo, che probabilmente sono semplici manovalanze, ma che poi possono, come nel caso di Annie Summer, diventare molto di più, diventare veri e propri terroristi. E questo è il racconto che trova un riscontro nelle parole del capo della polizia Franco Gabrielli, che in un'intervista al giornale dice: attenzione, l'ISIS stava per colpirci, prima o poi lo farà. Non voglio creare allarmismi, dice, ma è così. Esiste una propaganda martellante che individua eventuali obiettivi come il Vaticano, il Papa, il Colosseo. Una chiama che arriva da riviste accreditate dell'ISIS, una si chiama Rumia, che in arabo vuol dire Roma. Non c'è una ricetta però, dice Gabrielli, il capo della polizia, sottovalutare la minaccia oggi è un errore gravissimo, lo dico in maniera molto cruda, anche noi un prezzo lo dovremo pagare. Speriamo di no, ma se lo dice il capo della polizia è una insomma, una minaccia, una precauzione, un'allerta che ahimè va presa con serietà. Ma del resto mi sembra che la cronaca ci abbia già dato dimostrazione che l'Italia non è fuori da nessun rischio da questo punto di vista. Avete rimpatriato numerose persone vicino alla Jihad, erano realmente pericolose? E risponde il capo della polizia: da indagini successive al rimpatrio abbiamo appurato che buona parte dei sospettati per terrorismo aveva realmente intenzione di compiere atti terroristici e fare morti. Una delle ultime espulsioni è avvenuta proprio ieri, è un tunisino è stato espulso dall'Italia. Sempre dai giornali di oggi, sulle prime pagine ci sono echi del scontro tra due personaggi come il sindaco di Napoli, Gigi De Magistris, e Roberto Saviano. De Magistris contro Saviano, lo scrittore Dico soltanto la verità, tanto per dire un titolo sul Repubblica, dove pure Saviano scrive, e insomma sapete, sono volati gli stracci perché... dopo l'ennesima sparatoria in centro a Napoli, Saviano ha scritto raccontando i mali della città. De Magistris ha scritto un post su Facebook, poi ieri anche in un'intervista: sono stanco, basta parlare male di Napoli, Saviano si sta trasformando in un venditore di notizie che fa arricchire i suoi editori, ma Napoli è anche altro. Io, dice De Magistris, sto cercando di rilanciare la città e la città sta migliorando. Replica di Saviano: dico solo la verità, però le accuse che sono volate sono pesanti. Mi interessa solo leggervi questa intervista al procuratore nazionale antimafia Roberti, che dice: intanto chi combatte i clan impari a dialogare, cioè un invito a non far volare gli stracci se davvero tutti e due si collocano sul fronte della lotta alla corruzione, alla camorra, della legalità, che insomma sta a cuore a tutti. È inutile che si prendano come due galli nel pollaio, perché questo fa male a Napoli. La realtà di Napoli è già talmente complessa, dice Roberti, da non avere alcun bisogno di contrapposizioni di questo genere. Persone come Saviano e De Magistris hanno il dovere di dialogare senza divisioni, perché le divisioni fanno il gioco di chi punta allo sfascio per lucrare sulla pelle della città. A chi si riferisce? Ai camorristi, naturalmente, ma anche ai politici collusi, agli imprenditori conniventi con la criminalità organizzata. E poi un giudizio sulla città: la procura ha conseguito risultati importanti, comprese delle condanne per gli imputati nel processo sulla cosiddetta paranza dei bambini. Problemi esistono, dice il procuratore nazionale antimafia, però non devono impedirci di guardare alla realtà e di prendere atto di alcune situazioni positive che pure vanno evidenziate. Non parlo solo del turismo da cartolina di Napoli, ma di una nuova coscienza civile che sta prendendo piede e che è la premessa di un autentico riscatto. Quindi questo è l'invito che arriva dal procuratore nazionale antimafia a De Magistris Saviano: non litigate, ma collaborate semmai per il bene della città, voi e tutti gli altri naturalmente, non solo loro. Siamo, direi, in chiusura. C'è tra poco il giornale radio, ancora velocemente qualche altro spizzico di notizia sul Fatto Quotidiano, ancora echi dell'inchiesta che ha riguardato il padre di Renzi e Lotti. Romeo indagato per camorra, lancia messaggi a Renzi e Lotti, i legali dell'imprenditore, inchiesta strumentale per colpire le alte cariche. L'indagine che ha coinvolto il ministro dello sport e sfiorato l'ex padre dell'ex premier è partita dall'ipotesi di corruzione nell'affare a cui puntava il costruttore napoletano. In tanti ora temono gli esiti di questo nuovo fronte investigativo. E quindi questo è sul Fatto Quotidiano di oggi. È tutto, direi, per ora. C'è il giornale radio e noi ci risentiamo con Si può fare subito dopo. A più tardi. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Sono Enrico Ruggeri, una settimana molto particolare ci aspetta il Falco e il Gabbiano. Il terribile racconto dell'unica persona riuscita a evadere da un campo di concentramento della Corea del Nord, Shin Dong-hyuk, e ne parliamo anche con Busta, uno che l'ha conosciuto. Una delle più grandi leggende del calcio degli ultimi 50 anni, la storia di Johan Cruyff. Una donna che si è impegnata a rappresentare degnamente tutto l'universo femminile, ma anche una scrittrice, una nostra amica. Ne parliamo con altri amici, Luca Dini, direttore di Vanity Fair, Daria Bignardi, raccontiamo Francesca Del Rosso. Pete Townshend, anima e fondatore di una delle più grandi rock band della storia, gli Who. E poi la vita di un pazzo che in realtà è stato uno dei più grandi attori degli ultimi 50 anni. Ha gestito, forse male, la sua follia, Klaus Kinski. Tutti i giorni alle 15:30 su Radio 24, il Falco e il Gabbiano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Otto e 15 minuti, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno, buon anno si può ancora dire? Sì, basta, poi è la basta. La prima puntata dell'anno del 2017, quindi buon anno a tutti. Allora, cari ascoltatori, siamo qua, stiamo insieme fino alle 10 con Si può fare il buongiorno del weekend di Radio 24 che riprende in diretta oggi, poi domani un'altra puntata con un meglio di con storie nuove, faremo un giro di Si può fare nel mondo, però insomma riprendiamo i nostri posti dopo la pausa estiva e dopo essere stati insieme anche anzi queste serate. Ieri c'era anche tu, Carlo, in sì, diretta. Signori, non ero più abituato a farla sera, la sera è diversa. È diversa, cambia tutto, cambia sì. Quasi tutto o non cambia niente. Allora, ascoltatori, vi aspettiamo come sempre 800 24 00 24 per tirarci su il morale, perché nel weekend cerchiamo con le nostre buone pratiche che andiamo a scovare qua e là di rinvertire un po' il trend della settimana, della settimana di cronaca. Però oggi vi chiediamo anche, insomma, di fare un bilancio su questo anno che ci siamo lasciati alle spalle è in termini anche proprio di termini, di parole, di linguaggio, di parole utilizzate, non solo come omaggio a Tullio De Mauro. Certo, che ricordiamo. Grande linguista, scomparso, insomma, uno che poi la lingua amava molto i dialetti, quindi non era lo studioso della lingua lontano, così chissà dove. No, non era questo. Però, insomma, non è tanto questo quanto vi chiediamo, appunto, qual è la vostra parola dell'anno, la parola del 2016? Quella che lo descrive meglio. Quella descrive meglio. Cosa ci rimane alla fine? Stringi, no? Non so, Brexit, parola straniera, ma insomma, che ha dominato il dibattito. Adesso si chiude l'anno, si parla molto di post verità, giusto. Io forse sceglierei referendum popolare, perché in realtà quest'anno è stato tanto in Italia se ne è parlato praticamente per 11 mesi, e comunque la Brexit è stato un referendum, sì. Anche quello referendum, bella parola. Poi noi ci siamo presi una bella ammazzata con sto referendum, perché mesi e mesi di dibattito sul referendum, poi referendum perso a Renzi, cambiato il governo, questa storia della riforma eterna, e già si parla il nuovo referendum, quello sul Jobs Act, quindi basta, anche legge elettorale potrebbe essere una parola, anche legge elettorale. Va bene, quindi ascoltatori, sfogate la vostra fantasia, la vostra memoria e anche così un po' di originalità, no? Con una poi motivazione della parola che scegliete. Chiamateci all'800 24 00 24. Come sempre, chi ci convincerà di più si porta a casa i biglietti della mostra di Basquiat, credo sia ancora Mudec di Milano. Quindi vai, iniziamo. 800 24 00 24. 1, 2, 3, 4. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. Allora, una parola di quest'anno potrebbe essere sicuramente anche questa, lavoro. Lavoro, sì. Lavoro che manca, il lavoro che non c'è, il lavoro che in qualche caso è del decennio, scusami, pensavo che fosse solo di quest'anno, ma direi che è proprio del decennio. E il lavoro che in questo caso, in questa storia che andiamo a raccontare, un po' c'è, un po' non c'è, e si intrecciano nel caso della Natuzzi, una importante azienda pugliese che ha avuto una crisi, poi una ristrutturazione, e ha proposto varie soluzioni dopo una lunga vertenza sindacale ai lavoratori, dove si intrecciano storie diverse, anche contraddittorie, che sono un po' storie dei nostri tempi di lavoro. Lavoratori che per esempio hanno perso il lavoro e pur di riaverlo sono disposti a restituire gli incentivi economici che hanno ricevuto, e invece al contrario ci sono dei dipendenti che sono stati licenziati, ai quali adesso viene offerto un lavoro, ma che non sembrano disposti ad accettarlo per qualche motivo. Allora, io intanto do il buongiorno, buon anno, benvenuto, tutto quello che vuole, a Silvano Penna, segretario generale Fillea CGIL Puglia. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. Allora, io faccio una piccola sintesi storica, diciamo così, velocissima, e poi iniziamo a parlare di questo, appunto, di questo caso che presenta varie sfaccettature. Allora, luglio scorso, Natuzzi, storica azienda pugliese, grande però a questo punto quotata al Wall Street, un'azienda che ha sedi anche nel mondo, in quel momento in crisi lascia a casa un po' di persone, però riprende negli stabilimenti di Bari con 1800 dipendenti, riprende la produzione, ne lascia a casa 355. Di questi, 140 accettano una buona uscita di alcune decine di migliaia di euro, gli altri 215 vengono licenziati. Dopo una lunga vertenza sindacale a Roma, l'azienda decide di riaprire un altro stabilimento a Giacosa, riassumere quei 215 dipendenti, però solo in 32 accettano, gli altri 180 rifiutano quel lavoro che adesso gli viene offerto, che invece invece, guarda caso, lo rivorrebbero alcuni tra quelli che avevano accettato la buona uscita dall'altra parte. Allora, intanto, Penna, le chiedo se ho detto qualcosa di molto sbagliato, perché ci sono sicuramente dei dettagli da aggiustare, ma insomma, se a grosse linee ho detto correttamente? Sì, per grandi linee è questo, solo che l'azienda non li riprende semplicemente, ma abbiamo concordato con l'azienda che si costituisce una newco, una nuova società che diversifica le produzioni aziendali, e quindi in questa nuova società, che comunque è di proprietà della stessa Natuzzi, i lavoratori sarebbero assunti. Quindi questa è l'unica cosa che credo. Ma con lo stesso tipo di contratto? Ecco, la prima domanda stesso è questa. Stesso tipo di contratto, stesso tipo di prestazione, stesso tipo di assistenza, stesso tipo di diritti, perché abbiamo concordato che i lavoratori, seppur licenziati e riassunti dalla società, conserveranno i diritti acquisiti nella vecchia società, conserveranno anche parte dell'anzianità che avevano maturato nella vecchia società. E anche questa è una piccola questione che sappiamo, l'anzianità aziendale, che vuol dire piccoli scatti e certo, questioni acquisite a cui non si vuole rinunciare. Però la domanda a questo punto che chiunque si fa in Puglia, perché conosce questa vicenda o anche semplicemente perché ha letto un titolo del giornale, dice: ma come si può rifiutare un posto di lavoro? Per quale motivo questi 200 e rotti lavoratori non hanno accettato? Diciamo questo, questi 170 circa, 160 lavoratori che non accettano la ricollocazione in questa società lo fanno perché loro sono assistiti dagli avvocati e non dal sindacato, hanno deciso di farsi assistere direttamente da alcuni avvocati. Questi avvocati li stanno sconsigliando di accettare perché chiaramente, avendo avviato una serie di cause, compreso anche la causa per il licenziamento, gli avvocati è chiaro che li consigliano di non accettare, perché accettare significherebbe rinunciare di fatto alle cause in corso. Questo però è chiaro, andrebbe valutato un attimo meglio qual è la convenienza reale per i lavoratori e qual è la convenienza reale per gli avvocati. Però perché questo è un punto fisso di questo nuovo contratto, nel senso che alla firma del contratto si rinuncia a tutte le questioni di questa causa. Immagino che sia per l'ingiusto licenziamento e così via, per il fatto di non aver preso l'indennizzo, giusto? No, allora gli indennizzi sono stati tutti quanti riconosciuti, ma verrebbe anche, l'azienda è disponibile anche a riconoscere una parte delle rivendicazioni dei lavoratori, facendo però una chiusura transattiva delle vertenze che loro hanno. Perché vede qual è la questione? Il fatto è questo, no? Nel momento in cui si sta discutendo a livello nazionale, politico, di un possibile reddito di cittadinanza, un'estensione di sussidi alla disoccupazione, eccetera, nel momento in cui, per esempio, in Finlandia si sta sperimentando, ma anche in altre parti d'Europa, un reddito non condizionato, tra l'altro, a eventuali proposte di lavoro. Addirittura in Finlandia si sta sperimentando questo, come anche vorrebbe il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo, cioè un sostegno al reddito fisso che non dipende dal fatto di accettare o non accettare corsi di formazione o proposte di lavoro, eccetera. Perché? Perché il rischio che si corre è proprio questo, cioè si sta valutando se si sta creando un disincentivo delle persone che ricevono questi sussidi poi ad accettare realmente dei posti di lavoro. Allora qua siamo proprio in questa situazione, mi sembra, però ce lo dica lei se c'è anche un po' questo: io sto ricevendo un sussidio e quindi non voglio più andare a lavorare, in poche parole, no? Che può suonare strano, ma può essere una scelta legittima da parte di qualcuno. Ma diciamo, questi lavoratori sono stati licenziati e collocati in mobilità, per cui avendo anche un'età, quasi tutti hanno un'età superiore ai 40 anni, quindi ad oggi hanno diritto ancora quasi 3 anni della vecchia mobilità. Per cui diciamo anche questo, cioè stare in mobilità e lavorare, la differenza della retribuzione rispetto all'indennità non è poi così ampia, così alta. Per cui, insomma, se uno non ha proprio bisogno del lavoro per viverci, diciamo che non ha grandi convenienze a rientrare al lavoro. Cioè l'assegno di mobilità, l'assegno di mobilità che è di 1200 euro lordi al mese è più o meno quanto prendono poi come dipendenti? Qualcosina in meno. Qualcosa in meno, però chiaramente in cambio, non devi andare al lavoro. Certo. Sì, no, non lavoro e posso continuare a fare queste cause che immagino che sia il loro punto, il punto di lavoro, certo, visto che sono praticamente tutti che non hanno accettato di firmare, nel senso che se fossero 4 o 5 uno inizierebbe a dire, ah, sono quelli che vogliono stare a casa e prendere il sussidio e non fare niente, ma siccome su 215 mi sembra di aver capito che 180 hanno scelto di non firmare, di non tornare a lavorare, immagino che sia più per la questione della causa, giusto? Sì, infatti, dicevo prima. Il loro so per certo che gli avvocati hanno fatto delle riunioni con questi lavoratori e gli hanno sconsigliato di accettare il lavoro. Ma di accettare comunque la transazione per il lavoro. Voi però avete spinto per fare questo accordo a Roma, al Ministero dello Sviluppo, per diciamo ritornare all'origine di tutto, che è il posto di lavoro, no? Quindi questa New Co che è stata immaginata e questa oltre 200 posti di lavoro che poi sono stati offerti, adesso però i lavoratori non in gran parte non stanno accettando. Io le chiedo, lei considera un fallimento questa avvertenza, questa trattativa dal suo punto di vista di un sindacato che si è impegnato insieme alla azienda a trovare una soluzione, la soluzione viene trovata, ma poi in realtà decade nel momento in cui i lavoratori non accettano. È un fallimento questo per qualcuno, credo? Ma io credo proprio di no, nel senso che noi abbiamo fatto un buon accordo, un accordo che ripropone il tema per noi assolutamente prioritario, che è quello del lavoro, lo risolve. Proprio attraverso la stessa azienda, attraverso la diversificazione produttiva, attraverso nuovi investimenti, e credo che questo non possa essere considerato un fallimento in nessun caso. Però nel momento in cui questo accordo non entra in funzione, c'è un qualcosa che non va, no? C'è qualcosa che non va sicuramente, va ancora indagato il perché di questi rifiuti così ad accettare il lavoro, però ce ne sono una parte che hanno accettato, sono 32 lavoratori che hanno accettato e non dimentichiamo, purtroppo noi siamo in un pezzo dell'Italia dove le espulsioni dal posto di lavoro avvengono quotidianamente, non tutti hanno la fortuna o la sfortuna di essere collocati in mobilità, di avere un sussidio, molti lavoratori, ecco come lei ricordava prima, abbiamo dei lavoratori che hanno accettato l'incentivo all'esodo, quindi hanno rinunciato a tutto per andar via. Questo prima che si venisse costituita la New Co. Adesso vorrebbero entrare. Adesso che la New Co è una realtà e che quindi loro vedono concretamente la possibilità di tornare al lavoro, sarebbero disponibili anche a rinunciare a una parte dell'incentivo. Si può fare scambio e far entrare questi lavoratori che invece sono interessati al posto di lavoro? Guardi, io personalmente sto sostenendo la causa di questi lavoratori, la richiesta di questi lavoratori. Settimana prossima incontrerò l'azienda per conto di questi lavoratori, vedremo. Secondo me sarebbe giusto e opportuno dare un'opportunità a chi la cerca, a chi la chiede. Senta, allargando un pochino anche lo sguardo, perché poi la vicenda in sé può anche risultare un po' asfittica, nel senso ci sono questioni legali, più di tanto non possiamo approfondire e neanche forse capire, bisognerebbe fare un lungo reportage, entrare proprio nelle dinamiche del caso Natuzzi. Invece parlando più in generale, questa è una crisi aziendale come ce ne sono purtroppo, ahimè, state altre anche in Italia. Le voglio chiedere un po' qual è secondo lei il motivo, se c'è una crisi del mercato, se ci sono costi troppo alti per la produzione in Italia, se ci sono stati errori manageriali, come si spiega lei questa difficoltà di un gruppo così importante? La crisi della Natuzzi avviene un po' prima della grande crisi che ha coinvolto il paese, anzi il mondo, perché questo è un settore nel quale parliamo di design, parliamo di arredo, parliamo di salotti, quindi l'azienda intanto fa solo salotti, non ha mai diversificato la propria produzione, è un'azienda che ormai ha dei costi molto alti, ma li ha perché purtroppo non ha mai investito più di tanto in innovazione produttiva e del prodotto stesso. Quindi questo ha prodotto nel tempo un ritrarsi del mercato, che comunque non dipendeva soltanto dal prodotto Natuzzi, ma dalla crisi globale che a questo punto è intervenuta, e la Natuzzi l'ha pagata un po' più di altri. Oggi la Natuzzi ha fatto da diversi anni, da qualche anno, sta investendo in innovazione produttiva, innovazione del prodotto, innovazione anche del processo produttivo, e sta riprendendo pezzi di mercato. Certo, però i numeri che la Natuzzi aveva 10 anni fa, 20 anni fa di vendite, oggi non sono nemmeno immaginabili. I mercati anglosassoni, il mercato americano in primis, ormai è rivolto a un prodotto cinese, e quindi anche queste sono difficoltà che la Natuzzi si ritrova. Gli americani prima spendevano di più per un salotto, erano disponibili a spendere di più, a cambiarlo dopo 6 mesi, oggi spendono meno e lo cambiano dopo qualche anno. E soprattutto c'è IKEA, così se dico io il nome di un brand che forse non si può, insomma, per intenderci, un tipo di arredamento molto più economico. Infatti, dicevo prima, sono rivolte a un mercato cinese, quasi esclusivamente cinese, per cui la Natuzzi ha grandi difficoltà nel mondo, perché il suo mercato non è solo Italia, anzi l'Italia rappresenta pochissimo per la Natuzzi, ma è il mercato più globale. E questo, ripeto, con un'azienda che occupava diverse migliaia di lavoratori che facevano solo questo prodotto, chiaramente ha avuto delle conseguenze drammatiche. Sono anni che siamo riusciti ad impedire i licenziamenti nella Natuzzi, però poi quando sono finite tutte le opportunità di utilizzo di ammortizzatori sociali, di sperimentazione e altro, purtroppo abbiamo dovuto in qualche modo accettare questo taglio del personale. Torniamo a quello che dicevamo prima, però siamo riusciti, ecco perché non è un fallimento. È vero che abbiamo tagliato personale nella Natuzzi, però siamo riusciti a sfondare il muro che avevamo di fronte, che la diversificazione produttiva, che la Natuzzi non voleva, che finalmente ha accettato di fare. E questo, insomma, dovrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, che però non viene ancora completo. Senta, un'ultima considerazione che le chiedo di fare è questa, Penna. Dato che negli ultimi mesi il dibattito in Italia è stato concentrato, forse negli ultimi anni, sulla questione del Jobs Act, adesso il suo sindacato, la CGIL, ha raccolto delle firme, l'11 gennaio ci sarà la valutazione della Corte Costituzionale per il referendum, per l'abrogazione di alcune parti del Jobs Act. Sbaglio se dico però che in un caso come questo della Natuzzi, di cui abbiamo appena parlato, che i posti di lavoro che si perdono o che eventualmente si recuperano non c'entrano molto con i temi del Jobs Act e eventualmente anche con il referendum, che per voi ha ovviamente un valore simbolico, ma non solo, però ha un valore, ma che in un caso come quello della Natuzzi non impatta. Non impatta. Sono altre le tematiche. Come non ha impattato nemmeno il Jobs Act. Va bene, staremo a vedere. Grazie intanto a Silvano Penna della filiale CGIL Puglia, e ci ha così guidato all'interno di un caso, uno tra i tanti, ma insomma un caso di crisi aziendale, quello della Natuzzi, dove appunto abbiamo raccontato, si intrecciano storie anche molto contraddittorie di lavoratori che vogliono in ogni caso posto di lavoro e altri che invece stanno portando avanti una battaglia legale per difendere gli incentivi economici, magari qualcuno è vicino alla pensione, quindi dice tiro qualche anno con la mobilità e staremo a vedere. Questo però forse ci dice qualcosa su come affrontare anche la questione del lavoro. E anche di una certa sfiducia, mi sembrava che anche giustamente il sindacalista diceva si stanno facendo difendere dagli avvocati, non si sono rivolti al sindacato, quindi in qualche modo preferiscono andare per un'altra strada, non più attraverso il sindacato, ma evidentemente pensano di riuscire a raggiungere un obiettivo migliore muovendosi anche da soli, perché esatto, è come sta cambiando un po' il modo in cui i lavoratori affrontano la difesa del loro posto di lavoro e come sta cambiando proprio un po' tutto in Italia in questi anni. 800 24 00 24, abbiamo provato ad addentrarci in una vicenda anche complessa. Cari ascoltatori, se vi siete fatti un'idea, chiamateci, noi siamo qua, poi siamo qua anche per ascoltare e accogliere le vostre parole dell'anno. Qual è la parola dell'anno secondo voi? Brexit, lavoro, verità, post verità, referendum. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora eccoci qua, andiamo subito con i primi interventi degli ascoltatori. Abbiamo Federico che chiama da Treviso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua, vai Federico. Allora, secondo me la parola, è il tema è voucher. Uh-huh. La tua parola dell'anno è voucher. Una parola che abbiamo imparato, sì, in effetti, a conoscere bene. E sappiamo anche quest'anno. Scrivere ultimamente, perché in effetti voucher non è facile. Adesso, a furia di leggere sul giornale, abbiamo almeno imparato a scriverla. Voucher dice sì anche il metodo di pagamento del lavoro accessorio, quel diciamo titolo che si acquista, credo, anche presso le tabaccherie, che può valere al minimo credo 10 euro lordi, di cui 7,5 vanno al lavoratore. Mi fermo qua. Ma sei pagato a voucher tu? No. Ah, no. Però ogni tanto mi capita di pagare a voucher qualche studente per qualche ora alla settimana, e devo dire che se non ci fosse questo sistema non saprei come impiegarli. Bravo, ecco, io voglio sapere da te appunto la motivazione per cui tu affidi a questo termine voucher un'importanza così da, come dire, da fotografare anche l'anno 2016. Ma perché? Intanto perché se ne parla molto. Sì? Secondo me è un metodo positivo, sì, pratico, facile, e toglie molto dal sommerso, dal nero, diciamo così, dal lavoro nero. E se ne parla moltissimo, secondo me mancano alcuni dati, cioè ci sono dei numeri per quanto riguarda l'utilizzo, sì, ma non è chiarito nell'istituzione di questo metodo quant'era l'atteso da parte di chi lo ha istituito, dal governo. Diciamo che il problema che è emerso è stata che c'è stata una estensione dei casi di applicazione, inizialmente previsto per studenti o disoccupati o pensionati, poi è diventata applicabile a tutti i settori, è stato applicato a tantissimi settori e l'utilizzo dei voucher è enormemente cresciuto, quintuplicato credo nel giro di 2 o 3 anni, tanto che lo stesso ministro Poletti ha detto, bisogna ridimensionare le casistiche. Perché tanto è buono per pagare, per risolvere il problema del sommerso, di chi fa le ripetizioni, di chi lavora 2 ore, di chi ogni tanto fa dei lavoretti, quanto è ingiusto nel momento in cui viene sostituito, certo, al contratto di lavoro continuativo, invece vieni pagato a voucher tutto l'anno. Certo, fatta la legge e trovatelo inganno. Esatto. Il problema è eliminarli. Al di là delle percentuali, capire il rapporto al complessivo nazionale è tanto, se poco. E esatto, poi ripeto, quant'era l'atteso da parte della politica, cioè di chi ha istituito questo criterio, questo metodo, quanto pensava che venisse utilizzato, perché altrimenti non abbiamo un rapporto serio, vero. Va bene, va bene. Tanto, se poco. Ci fermiamo giusto qua. Grazie Federico, mettiamo grazie agli atti il voucher come parola dell'anno e sentiamo anche Giorgio da Firenze. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Prego. Allora, ho creduto di dire Amatrice, terremo di Amatrice, per una somma di valori, sì, che non sono soltanto un auspicio che le autorità, risolvano quanto prima questo problema di una popolazione inerme in un territorio italiano è molto sensibile a questi movimenti tellurici, ma anche per la somma di valori storici, culturali e religiosi che la terra simboleggia, diciamo così, e quindi per questi motivi è conosciuta in tutto il mondo e sì, quindi solleva un problema che mette l'Italia come nazione che ancora una volta è sotto esame, okay, per la soluzione dei problemi secolari. E quindi dice Amatrice, non ho capito se dice Amatrice o terremoto, qual è la parola che scelgo? Guarda, o le tutte due insieme. E due le cose, avrei potuto insieme dire Norcia, che è la stessa cosa. Abbiamo bisogno di una parola, e tra l'altro ero molto curioso di come mai dicesse Amatrice e non Norcia, perché ho la sensazione che un po' tutti dicano Amatrice e ci si dimentichi di Norcia. E allora Norcia. No, va bene, perfetto. Beh. Allora, no, un momento, la parola Giorgio qual è? Quindi alla fine Norcia. Norcia. Norcia. Va bene, perfetto. È una è un nome, in realtà, è ma un è anche nome una parola mondiale, quindi, anche della religiosità, della cristianità nel mondo e dell'Europa. Ottimo. Mettiamo agli atti, grazie mettiamo mille. Agli atti. Grazie. Buona giornata, Giorgio. Fabrizio da Torino, buongiorno e benvenuto anche a te. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sono, lavoro nel settore dell'arredamento, volevo dire qualcosa a proposito della cassa integrazione di Natuzzi. Sì, prego. Praticamente sono, credo, una decina d'anni che la Natuzzi abbia rotazione delle casse integrazioni. E se però voi andate nel settore dove loro producono, sono nati un sacco di laboratori cinesi e anche italiani. Che hanno a lavorare dipendenti che sono in cassa integrazioni e che lavorano lì in nero, e questo sindacato lo ha sempre saputo e fatto finta di non vedere. Cioè sta dicendo che è più preciso il motivo per cui uno non accetta il reintegro al posto di lavoro, perché certo, piglia la cassa integrazione certo, da una parte, continua certo, a lavorare dall'altra, certo, prende certo in nero, manco i voucher. Sono morti tutti in quella zona che era, diciamo, il polo mondiale del divano. Del divano. Si sono spostati in Cina, si sono spostati in Bulgaria, perché Natuzzi stessi ha sia fabbriche in Bulgaria che in Cina. Sì, infatti ne sta riportando alcune, è questo il motivo per cui sta riassumendo. Non vogliono rientrare dalla cassa integrazione perché lavorano in nero dai cinesi. Poi basta, beh, questa che fate, è una cosa, è una cosa possibile, a vedere, cioè, è una cosa possibile, è chiaramente il settore dei divani, sì, in questo momento è diciamo rovinato molto da questa cosa, perché anche un grosso gruppo nazionale che in questo momento sta facendo pubblicità in tutti i canali televisivi e radiofonici, il 50% della produzione ce l'ha in una ex fabbrica di calze dove lo Stato dà i soldi, cioè praticamente perché si insediassero e perché riprendessero le lavoratrici, hanno delle agevolazioni che fanno concorrenza sleale con quelli che invece hanno dei dipendenti da dover pagare. Va bene, Fabrizio, questa cosa che tu dici è possibile, in alcuni casi sono state fatte anche delle inchieste, è un'accusa abbastanza pesante, si tratta di una cosa naturalmente illegale, ultra illegale, doppiamente legale perché è lavoro nero, ma lavoro nero nel momento in cui stai anche assorbendo un sussidio, e quindi questa, diciamo, diventa materia giudiziaria, però naturalmente tu dici i sindacati su questo devono aprire gli occhi, ma mi sembra che qualche momento di perplessità trasparisse anche, diciamo così, dalle parole del sindacalista della CGIL Puglia. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo tra poco. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala. Ma intanto stanno arrivando delle risposte anche all'SMS, al 342-38-6666, alla parola dell'anno, abbiamo confusione. Dice un ascoltatore, la parola che secondo me connota il 2016 a livello nazionale e mondiale deriva dall'incompetenza e improvvisazione di tanti dirigenti politici e non solo, ho letto tutto il messaggio. Poi abbiamo Trump, ho visto, Trump. Che come parola però immagino. Sì, anche Renzi abbiamo. Ricordiamo che comunque bisogna voucher. Telefonare per partecipare all'assegnazione del biglietto per la mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. E allora, mentre il nostro Frank High Energy decanta le virtù della bicicletta... È il nostro primo pedala del 2017. È il nostro primo pedala, esatto, per introdurre la notizia che vi vogliamo raccontare ed è questa, una pista ciclabile in costruzione, bene sì, da Cortina fino a Jesolo, dalla 160 chilometri al mare, pazzesco, il sogno diventa realtà. È con noi l'assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, qui vedo che si parla già di una data di fine lavori, 2018, ma le volevo chiedere al contrario, la data inizio lavori ce l'abbiamo già, sono già iniziati i lavori, perché spesso questi annunci vanno tenuti d'occhio, da vicino, assessore? Non abbiamo, non sono ancora iniziati i lavori, ma inizieranno a brevissimo. Mi cade sulla data inizio lavori, quando iniziano? Adesso glielo dico, è appena stata conclusa la gara di appalto, perché ovviamente essendo un'opera pubblica deve essere fatta una gara. Si inizierà d'estate giustamente? Si inizia molto prima, stata aggiudicata il lavoro a un'impresa veneta, e inizierà entro il mese di febbraio, quindi insomma tra un mese iniziano i lavori e poi continueranno fino a termine dell'opera. Stiamo parlando in questo caso di un'opera che è lunga 135 chilometri, che coinvolge oltre 20 comuni. Stiamo parlando in modo particolare in questo stralcio della ciclabile che attraverserà tutta la provincia di Treviso, sia in lato destro che in lato sinistro del fiume Piave. E che quindi affiancherà per lunghi tratti il fiume Piave. Sì. Si chiamerà proprio... La Piave. La Piave, esatto. È giusto? Si potrà fruire appunto di questa possibilità di fiancheggiare Piave sia in riva destra che in riva sinistra, quindi ognuno può scegliere, oppure può scendere da una parte e risalire dall'altra, e lo può fare a piedi, in bicicletta. Saranno appunto dei percorsi assolutamente eccezionali, che consentiranno anche a tutti i turisti che vengono in Veneto di avere questa ulteriore possibilità. Ricordo che uno potrebbe dire, no, La Piave, vi siete sbagliati, è il Piave, no, magari qualcuno che invece no, La Piave, perché la pista ciclabile è legata al Piave, quindi attenzione, La Piave. Ma lei stava dicendo, si può percorrere in un senso o nell'altro, da un lato all'altro si potrà percorrere del fiume appunto. Cortina si trova a circa 1200 metri di altezza, credo. Immaginate che verrà percorsa più a salire, è un po' più faticoso, o a scendere? Sicuramente a scendere, di solito la storia dice questo. Ovviamente cioè è un po' più facile, insomma, perché in salita a quel punto diventa per i pochi che hanno il polpaccio, la gamba, o la mountain bike. Scherzi a parte, quanto può valere questo turismo, del cicloturismo, che sappiamo è in grande espansione, in grande crescita, tutte le regioni, le città, abbiamo il progetto della Vento, la ciclabile tra Venezia e Torino, stanno cercando di intercettare questo segmento del turismo che è importante per la vostra regione. Che stime fate, che tipo di affluenza e anche di introiti immaginate che possano arrivare da questo investimento? Ma guardi, intanto ricordiamo che il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, con oltre 60 milioni di presenze ogni anno. La parte del Leone la fa la provincia di Venezia, sia con la città che con tutto il litorale, ma quello che stiamo vedendo in questi ultimi anni è che sta crescendo in modo esponenziale tutto quel turismo che viene definito di nicchia, ma tanto di nicchia non è, perché fa centinaia di migliaia di presenze, che riguarda tutte quegli sport ecosostenibili, peraltro, come il ciclismo, come il parapendio, come il surf, come insomma tutta una serie di sport cosiddetti minori, ma che attirano tantissime persone da tutto il mondo. Vengono a praticare questi sport. Fra l'altro vorrei ricordare, le Dolomiti sono anche patrimonio dell'umanità, quindi abbiamo una certificazione di un ente come UNESCO che le dichiara le montagne più belle del mondo. Pertanto riuscire a mettere in collegamento le Dolomiti con Venezia, insomma, in modo ideale ma anche fisico, attraverso percorsi come quello che stiamo realizzando. È una cosa non da poco, è molto attraente come idea. Le voglio fare due domande che sono due cose che arrivano dagli ascoltatori al 349-238-6666. Intanto c'è chi ci chiede qual è la pendenza massima della pista ciclabile, un dato tecnico ma che intriga i ciclisti che vogliono sapere quanto dovranno misurarsi su questa ciclabile, assessore. Sullo stralcio che stiamo facendo adesso in provincia di Treviso, sì, la pendenza è dell'ordine del 2-3% massimo, o salvo qualche rampa, affrontabile qualche anche per un polpaccio non eccessivamente, sì, allenato. Bene, sì. Senta, l'altra cosa invece è un ascoltatore che dubita, scettico, che dice: il demanio blocca tutto, a Jesolo non si arriva, dice. È pessimista. Il demanio ride l'assessore, ma... Guardi, siamo in un paese in cui la burocrazia è mostruosa. Cito solo un esempio: io ho appena fatto come assessore all'ambiente una modifica a una legge, la legge di stabilità che abbiamo appena approvato prima di Natale, dove dico che nelle zone vicine ai fiumi sia possibile tagliare gli alberi senza fare la valutazione incidenza ambientale, che creava molti ostacoli dal punto di vista burocratico, e quindi mi rendo conto che i cittadini possono essere scettici, e lo dico perché anch'io sono spesso scettico e mi confronto con questi ostacoli, sì, ma stiamo cercando di semplificare laddove possibile. Ci sono delle normative che partono addirittura dall'Europa che sono assolutamente incomprensibili a mio modo di vedere, soprattutto quando si parla, come in questo caso, di sicurezza idraulica. Prima viene la sicurezza e poi viene l'albero che è cresciuto nell'alveo, che va preservato secondo qualcuno. Secondo me invece va tagliato per preservare la sicurezza dei cittadini. Le giro un'altra domanda di un ascoltatore che si chiama Omar, che ci chiede: ma è ciclopedonale o con le corsie pedone e ciclabile? È ciclopedonale. Quindi il che significa che bisogna aspettare che il pedone si sposti quando passi in bici, giusto? Sì, l'obiettivo non è quello di fare una pista, certo, di velocità, naturalmente, ma di fare... Quanto sarà larga più o mediamente questa pista, anche per avere un'idea? Ma dipende, insomma, comunque perché ci sono dei tratti, quelli più critici, soprattutto nella parte di montagna, che sarà piuttosto stretta e larga 1,5 metri. Ma insomma si viaggerà mediamente sui 2 metri, 2,5 metri. Ecco, mi raccomando, cioè, state larghi, perché noi poi abbiamo il confronto con la Germania dove ci arrivano notizie di autostrade, delle biciclette a quattro corsie, non facciamo brutta figura. Le giravo le domande perché ovviamente abbiamo un sacco di appassionati e ciclisti che quindi hanno delle domande come sempre ipertecniche su questioni sulle ciclabili. Se riesco a rispondere, volentieri. No, le domande però credo che a questo punto siano state tutte esaurite. Va bene, grazie assessore, complimenti, grazie, al Veneto, a tutti i comuni coinvolti, ai ciclisti, insomma, quant'altro. Però aspettiamo l'inizio e la fine dei lavori, ci vorrà circa un annetto, e buone pedalate a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Da grazie, Jesolo a Cortina, anzi forse da Cortina a Jesolo è più facile. Perché in discesa, certo, anch'io. Vedi tu. Vado vedi su a Cortina, tu. Mi metto sulla bicicletta e aspetto Jesolo. Lorenzo da Firenze, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sono anche un ciclista, ho salutato Gabardini a Firenze mentre facevo un allenamento, mi ricordo. Ah, perfetto. L'hai salutato dalla bicicletta, lui era in bici o tu eri in bici? Stavo entrando da un allenamento. Tu eri in bici, sì. Io ero in bici, l'ho beccato in centro. Io ero in piazza. A piedi. Sì. Ero al Pride di sicuro, al Toscana Pride. Lì. Perfetto. Divertente. Va bene, se avvistate Carlo in bici fategli una foto per favore perché vorrei vederlo. Lorenzo, prego, cosa volevi dire? Allora, la parola dell'anno. Sì. Ma come funziona? Cioè, noi la diciamo, voi la scegliete o è già scelta? No. Bravo. Voi la dite, giusto, e noi la scegliamo, non è un indovinello, è che vogliamo scoprire chi ci dice quella che ci sembra la migliore, la più appropriata. Con la motivazione anche più originale, interessante. La decisione è insindacabile nostra, peraltro, allora, lo ricordo. La decisione è intrinseca nella parola. È webete. Webete, il neologismo creato, non so se usato da Mentana, comunque quello. Sì, no, creato anche in valzo, direi. Sì. E spiega un po', dici qualcosa, aggiungi qualche particolare, Lorenzo. Ma perché la trovo una bella parola, cioè funziona bene, è stato veramente come al solito. Mentana ha dato del suo meglio. E in effetti Webete quest'anno ne abbiamo visti tanti, ne abbiamo letti tantissimi. Devo chiudere? devo chiudere. Va bene, allora chiudiamo. 800 24 00 24, giornale radio, e poi torniamo tra poco. Per ora abbiamo Voucher, Norcia e Webete, ma aspettiamo altre parole dell'anno 2016. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte, sito imbarazzante. Come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice: va bene. Solo che quando le passo il bicchiere. È una malattia, è pericolosa. Statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio. Faccio i selfie mossi alla web che io. Non mi fumo canne, sono anche stemio. Io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a comandare. Scatto foto col mio cane. Andiamo a comandare. In ciabatte nel locale. Andiamo a comandare. Sfaccio acqua minerale. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ho la testa che gira come il kebab. Spengo la musica dentro il tuo club. Eccoci qua, questo è Si può fare. E abbiamo appena ascoltato Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, visto che parliamo di parole. Siamo sempre in attesa di vostre telefonate, chiamate, chiamateci per dirci qual è secondo voi la parola dell'anno, la parola che meglio spiega o riassume quest'anno, visto che adesso parleremo con l'Accademia della Crusca, con Claudio Marazzini dell'Accademia della Crusca, e così chiederemo anche a lui di aiutarci a scegliere attraverso le vostre parole che ci avete già detto alcune. Abbiamo già avuto Brexit, abbiamo già avuto voucher. Io secondo me la parola dell'anno in realtà è referendum popolare, visto che si è parlato tantissimo di referendum. Anche la Brexit in realtà è stato un referendum, e soprattutto visto che si parla tantissimo di ma anche di giuria popolare, di votazioni online, insomma direi che la democrazia o qualcosa di molto simile sta diventando la parola del futuro. E allora, cari ascoltatori, 9:07, 800 24 00 24. Abbiamo telefonate o abbiamo l'ospite? Abbiamo regia? Abbiamo l'ospite. E allora, buongiorno a Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. Buongiorno a voi. E allora, carissimo, eccoci qua di nuovo a tessere le lodi della lingua italiana e anche a fare un punto su questo anno di parole che sono state dette. Sì. Quali sono per voi le parole dell'anno? Per noi la parola dell'anno resta petaloso, probabilmente. Petaloso? questo sì, neologismo perché, anche, no? Creato, sì, da questo bambino. Perché tra l'altro il direttore di Repubblica è venuto ospite in Accademia per festeggiare l'uscita di quella serie di, sì, di 14 libretti che stiamo facendo con Repubblica, ha portato la notizia che tra le 10 parole più ricercate da Google nell'anno c'è petaloso. Quindi certo, anche perché uno dice: ma che vorrà dire petaloso? Che sarà sta parola? E poi ha chiamato in causa proprio voi, quindi mi sembra impossibile, certo, per voi sceglierne un'altra. È stato un grande successo per noi, quindi siamo grati a Matteo, che è al piccolo Matteo, sì, che ha inventato, sì, questa parola. E quelle che avete citato voi, tra l'altro, sono tutte parole inglesi. Allora, infatti, vogliamo, ma sono quelle dei nostri ascoltatori. Esattamente, sì, qui volevamo arrivare. Come mai alla fine poi uno dice appunto voucher? Sì. E perché usiamo voucher invece di, non so, buono sarebbe la parola italiana? Lo so, se no poi ci mettiamo ticket invece di biglietto, eccetera. Certo. Ma se vogliamo delle parole miste, una parola che secondo me è significativa è il neologismo di Mentana, Webete. Sì. Femmineologismo, perché poi in realtà esisteva già prima, però lui l'ha ampliata di significato. Ecco, anche quella c'è stata proposta da un ascoltatore. Quindi scusi, ecco, perché, ci sta dicendo che Webet non l'ha inventato Mentana, c'era già. No, pare che ci fosse già prima in un significato più specifico, cioè era l'utente della rete che crede che internet sia solo web, no? Okay. Però Mentana invece l'ha esteso, gli ha dato un altro significato. Un atteggiamento dell'individuo che porta nel web l'aggressività, l'incapacità di discutere in maniera pacata, eccetera. No? Sì, sì. Quindi, certo. Ecco, a proposito di Webet, che tra l'altro appunto è una parola citata da un ascoltatore che concorre al nostro gioco di oggi per la parola dell'anno, della parola del 2016, ci rimanda ad un'altra parola che è stata un concetto, quello della post-verità, che è emerso in queste ultime settimane, e alla parola, l'altra parola che si lega a tutto questo, che è la bufala, il concetto di bufala. Dall'alto della sua posizione di presidente dell'Accademia della Crusca, noi abbiamo chiesto di indagare un po' sull'origine di questa parola. Sì, purtroppo l'etimologia resta piuttosto incerta per questo motivo, perché l'orizzonte a cui riporta potrebbe essere un orizzonte abbastanza antico, perché nel 500 e nel 600 esisteva la corsa delle bufale. Delle bufole, anzi, allora si diceva, che sembrava essere una specie di festa mascherata, tanto è vero che c'è Buonarroti, il giovane, che scrive dicendo una mascherata o bufolata o giostra. Allora l'idea, tra l'altro la maschera di bufola veniva anche usata dai cacciatori per avvicinarsi agli animali senza farsi vedere, quindi l'idea che sia una mascherata, una maschera, andrebbe abbastanza bene con l'idea di falsità. Quindi cioè mascherata da verità. Sì, esattamente, però il problema è che questa spiegazione etimologica, che riporta a un'epoca abbastanza antica, qualche centinaio di anni fa, non si concilia col fatto che la bufala, nel senso che usiamo noi, quindi come fandonia, invenzione, eccetera, è attestata in tempi recentissimi, perché la prima attestazione del Gradit, il dizionario di De Mauro, è 1960. Quindi la domanda che lui si pone è: ma come ha potuto esistere in maniera sotterranea per 700, certo, per 600 anni? Allora ci sono tentate altre spiegazioni, si è detto che viene dal romanesco, pare che venga dal romanesco, anche se appunto sicuramente ce l'ha anche nel toscano, se la spiegazione è quella che abbiamo dato. Quindi resta tutto sommato un po' misteriosa l'origine della bufala. Io pensavo più banalmente che fosse, siccome quelli che ti vendono le mozzarelle ti dicono sempre sì è di bufala, e poi invece è una mozzarella vaccina, e quindi è da quello che tu, quando arrivi a casa, la mangi e dici: ma questa è vaccina. Quindi quando ti dicono è una bufala, è sicuramente una menzogna travestita la verità, ovvero una falsità. Sì, ma invece pare che non sia così. No, ma mi fido più di lei, assolutamente. Senta, invece un'altra questione che ci siamo tirati dietro quest'anno abbastanza continuativamente è la querelle sull'utilizzo al femminile di certi nomi, di certe edizioni, di certi titoli. Allora si è discusso del fatto che si deve dire la ministra o la sindaca, e per esempio il sindaco di Roma, la sindaca di Roma Virginia Raggi, ha detto sì, chiamatemi la sindaca. Poi però abbiamo sempre una certa resistenza, sentiamo alcune donne dire: ma no, queste sono polemiche che non ci interessano, conta la sostanza. Addirittura un personalità come Giorgio Napolitano qualche settimana fa ha detto, addirittura credo che abbia definito un abominio l'utilizzo di queste espressioni, che non, evidentemente dal punto di vista estetico, ma forse anche per qualche altro motivo, non gli sono piaciute. Qual è il suo punto di vista e quello di voi studiosi della lingua italiana? Dunque, intanto è stato molto simpatico Napolitano, presidente emerito, perché a fine anno ci sono gli auguri alla presidenza della Repubblica, naturalmente da Mattarella, però l'ho incontrato, abbiamo chiacchierato a lungo, perché mi diceva: ma cosa mi è venuto in mente di dire? Perché era dispiaciuto del can-can che si è effetti, dopo il suo intervento. Perché, non è passato inosservato una definizione così pesante. Perché mi diceva Napolitano, diceva: io voglio chiamare la presidente Boldrini, presidente, a lui piace il maschile appunto, no? come ho sempre fatto con Nilde Iotti, quindi con illustri predecessori, certo, persone importanti, insomma, no? Quindi non è certamente da parte di Napolitano, non è una mancanza di rispetto, lo dico perché la polemica poi è cresciuta, c'è stato quel video di Sgarbi che sta girando in rete, no? Sì. È molto molto pesante invece, quindi naturalmente tra la posizione napoletana e quella di Sgarbi passa, cioè, c'è un abisso, no? Una cosa completamente passa diversa. Una repubblica. La posizione della Crusca, allora, la posizione della Crusca e anche, diciamo, quella del suo presidente, c'è in questo momento, credo che abbia ancora la prima pagina nel sito di Famiglia Cristiana, un mio intervento in cui questa posizione è spiegata, e la cosa è abbastanza semplice, cioè in questo momento c'è un'oscillazione nella lingua, perché le donne, che hanno, alcune donne che hanno fatto carriera in politica, che si presentano come qualcosa di nuovo, pretendono di essere nuove, amano il femminile, quindi la ministra, la sindaca, sì, e rivendicano attraverso questo femminile la conquista di nuovi spazi professionali, quindi potremmo cominciare dalla sindaca, arrivare alla chirurgia poi addirittura. Molti fanno resistenza perché sono affezionati a una tradizione che non prevedeva queste soluzioni, e qualcuno ideologicamente è contrario, quindi si passa da una posizione di senso moderato a un'avversità totale. Evidente. Posso sì, bloccare momentaneamente questa esposizione, sì, perché dobbiamo approfondire ancora, però io devo dare la linea alle informazioni sul traffico e poi torniamo, andiamo avanti tranquillamente con la sindaca, la ministra, anche perché io mi domando perché in alcuni casi c'è il maestro, la maestra tranquillamente, il professore, la professoressa, invece per il sindaco fino a ieri c'era solo il sindaco e non c'era la sindaca. Questa anche potrebbe essere una domanda, ma tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il credente nostalgioso, spinto dalla sua fede, va in cerca di Dio come i magi, nei luoghi più reconditi della storia, perché sa in cuor suo che là lo aspetta il Signore. Senta Marazzini, ci si mette anche il Papa che adesso ha detto nostalgioso. Siamo a nostalgioso. Ma... non so se è uno spagnolo... È straordinario infatti il linguaggio del Papa, perché in questa sua introduzione di ispanismi eccetera mantiene però una verità di linguaggio, una freschezza che è imbattibile, e non so, come quando è uscito con lo spuzzare, che è un piemontesismo, che quindi evidentemente è bellissimo quando ha parlato appunto della corruzione che spuzza, sì, che vengono fuori le radici dialettali della sua famiglia. Sì, lontane radici più piemontesi. Ha sentito quando era piccolo. Assolutamente. Quindi, assolutamente. E tra l'altro questo linguaggio, sì, anche se naturalmente non esiste perché sono neologismi, non suona falso alle orecchie degli italiani, perché c'è una fratellanza latina comunque tra noi e lo spagnolo, quindi le anomalie introdotte nel linguaggio da chi ha una formazione di lingua ispanica, iberica, e non sono sentite come sentono lucessi degli elementi inglesi o tedeschi. Certo. Gli italiani lo capiscono benissimo. Poi riconoscere per falso il Papa rischia di diventare anche un problema teologico. Senta Marazzini, comunque, però l'ho interrotta mentre stava spiegando la posizione dell'Accademia della Crusca, anche sua in particolare, sulla questione del il sindaco, la sindaca, la ministra, il ministro. Ecco, allora, dunque, intanto bisogna dire che probabilmente la sindaca, la ministra, se uno prende le statistiche, va in rete, fa le ricerche quantitative e numeriche, vede che ormai si sta imponendo, anche per la scelta di certi giornali. Per esempio lo stesso Calabresi per Repubblica vantava che Repubblica ha fatto pendere il piatto della bilancia dalla parte del femminile, perché Repubblica ha questa preferenza. Cioè, quindi lei dice che è importante anche l'uso, se questa cosa prende piede, a quel punto lì noi dobbiamo, come dire, prenderne atto, è così, e fa parte della lingua. Poi, quando, naturalmente, quando anche lo stesso Napolitano diceva è orribile, l'orribile nel campo della lingua è molto soggettivo, certo, perché è orribile una cosa a cui non si è abituati e poi ci si abitua, Quando le donne che rivendicano spazi nuovi dicono perché deve esistere il bidello, la bidella, esatto, ma invece il ministro e la ministra. Perché questo? No. Perché? Qual è la risposta che lei ci dà? Perché naturalmente le bidelle sono venute molto prima delle ministre donne, questo è il punto. E quindi è un punto di sostanza però, cioè proprio un punto, non è forma, è sostanza qua. La lingua è specchio della realtà, quindi la riflette e quando cambia la realtà il riflesso ritarda leggermente o può anche non venire, intendiamoci bene, no? Perché la lingua non è proprietà né della Camera Crusca né dei grammatici, la lingua è proprietà della collettività degli utenti, dove naturalmente poi ci sono degli utenti che pesano di più, per esempio sicuramente i giornali portano la lingua in una certa direzione. Va bene, Marazzi, però quindi seguendo, scusi, il filo del suo ragionamento, allora mi viene da dire, non ha senso resistere dicendo che sono parole brutte, sono espressioni brutte, perché lei ci sta dicendo, guardate che laddove da molto tempo ci sono le maestre, oggi non c'è solo il maestro ma c'è anche la maestra, quindi siccome ci saranno sempre di più, speriamo, le ministre e le sindache, quindi questo sarà la realtà della lingua italiana. Questa è certamente, se ci mettiamo a fare delle profezie, sembra che la direzione sia questa. Poi naturalmente, come dicevo, ci sono non soltanto le resistenze di abitudine, ma anche quelle ideologiche. Quindi immaginiamo una società in cui si rompa il meccanismo di crescita del potere delle donne, potrebbe invertire la tendenza. Ma questo non vogliamo neanche immaginarlo. No, esatto, ma quello che vogliamo capire è che dal punto di vista linguistico sicuramente c'è il femminile per tutto, non è che ci sono alcuni che dicono no, perché certo, presidente comunque è colei che presiede, quindi è lo stesso presidente, no, invece no. No, con l'uscita in la cosa può essere è diversa, perché in italiano abbiamo il prete e la forbice, quindi l'uscita in tollera i due generi. Certo. Quindi presidente, l'articolo può essere sufficiente, ma la stessa presidente Boldrini, che ho chiacchierato tante volte, mica vuole essere chiamata la presidenta, le va benissimo la presidente. Ah, pensavo la presidentessa. No, perché secondo una teoria che è già uscita negli anni Ottanta, viene sentito il suffisso in essa come offensivo. Esatto. Ecco, perché sindachessa, per esempio, nel vocabolario esiste da più di un secolo, però la sindachessa non era colei che aveva la carica, ma la moglie del sindaco che, influenzando il marito, gli faceva fare quello che voleva, quindi un ruolo di donna nell'ombra che trama. Sì, quindi il marito di Virginia Raggi oggi sarebbe il sindachesso. In un certo senso. Senta, le voglio chiedere però anche un'altra cosa che ha a che fare con la morte di Tullio De Mauro, la scomparsa di questo grandissimo, forse il più grande considerato linguista italiano, che è stato anche ministro dell'istruzione, è stato però un linguista vicino a tematiche anche molto popolari, gli piaceva il dialetto, non era uno che stava chiuso nelle sue stanze a studiare la lingua, eccetera. Però aveva a cuore molto questa cosa dell'analfabetismo funzionale, cioè il fatto che al di là del fatto di saper leggere e scrivere, gli italiani secondo lui restavano rispetto a altri popoli simili europei con questa sorta di arretratezza, di mancanza di consapevolezza culturale, di difficoltà proprio a entrare anche in certe tematiche. È una questione secondo lei ancora attuale oggi che ci sono le nuove tecnologie, il web che mettono a disposizione tanti strumenti di informazione e di conoscenza in più, questa questione di De Mauro, oppure appunto sta fortunatamente, speriamo, passando un po' questo tema? No, purtroppo è attuale senz'altro, perché ci sono i dati di un'inchiesta dell'OCSE del 2013, IAC scritto, si trovano in rete, basta fare la ricerca, che danno gli italiani all'ultimo posto per la capacità di comprendere un testo scritto, è al penultimo per i calcoli matematici, quindi addirittura il testo italiano viene capito meno dei calcoli, quindi la situazione certo che è grave, e De Mauro era molto attento alla lingua intesa come strumento di emancipazione civile, di partecipazione alla vita sociale, naturalmente è sempre stato colpito da questi argomenti. Quindi c'è ancora da fare, c'è ancora da lavorare. Purtroppo questi dati di PIAC 2013, cioè che tra l'altro non riguardano, di solito abbiamo delle indagini statistiche fatte sugli studenti, come i PISA, questi calcoli riguardano la fascia di scolarità, invece l'inchiesta dell'OCSE riguardava i giovani, dai giovani fino agli uomini di 65 anni, cioè per tutta la vita lavorativa, quindi era veramente uno specchio della situazione culturale del paese. Senta, ma le voglio chiedere, torno sul tema delle nuove tecnologie, dei social media, del web, strumenti che mettono a disposizione di tante persone la possibilità di scrivere, di affacciarsi, magari di rivelarsi tanti webeti anche, però anche di confrontarsi con lo scritto, con la lingua italiana. Ogni giorno ci sono milioni di persone che postano, scrivono su Facebook piccoli componimenti che magari in passato neanche immaginavano di poter fare. C'è un avanzamento in questo, lei vede, o come qualcuno dice, un imbarbarimento? Ma c'è l'uno e l'altro, perché la rete è un po' come i giornali, quindi la rete ha tutto. Quindi nella rete io posso raggiungere i siti delle più prestigiose università del mondo, oppure dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure posso andare a finire in un sito, e io avevo provato a fare un percorso, è divertentissimo, di siti che fanno la campagna contro le vaccinazioni, sì. Con testi pseudoscientifici. Tra l'altro mi sono molto divertito, perché ne ho preso uno, ho fatto una ricerca, e lo stesso testo pseudoscientifico che spiega le ragioni scientifiche per cui non ci si dovrebbe vaccinare sta in una ventina di siti, sempre identico, senza però che si riesca a capire la fonte, perché non esiste la fonte. Sì, è il copia e incolla, no? Una notizia che parte in un certo modo, poi viene riutilizzata mille volte senza spiegare. Quindi nella rete c'è tutto, sì. Quindi la rete può dare soddisfazione a delle persone che si muovono con consapevolezza intellettuale ad altissimi livelli, e può dare spazio a webeti, a folli, a gente che si scatena in maniera brutale. Quindi c'è tutto nella rete. La rete non cambia il mondo, a sua volta è uno specchio del mondo, in cui ognuno poi si va a cercare quello che gli interessa e quello che è capace a usare, quello che è capace a distinguere. Quindi per qualcuno è una promozione, per qualcuno è un affondare ancora di più. La rete offre tutto, è uno specchio perfetto di tutto il mondo. Allora, iscriviamo Marazzini al gioco di oggi con Petaloso. La parola dell'anno dell'Accademia della Crusca è Petaloso. Abbiamo delle chiamate degli ascoltatori che invece hanno detto voucher, webete, altri hanno parlato di Norcia. Norcia. Poi ci sono ascoltatori che scrivono al 3492386666, referendum, Trump, abbiamo Renzi, vediamo se abbiamo altre parole tra poco. Intanto noi i nomi propri non contano, però. Non valgono, lei dice. Quindi no. Non possiamo iscriverli. Se lo dice il presidente La Crusca, cosa dobbiamo fare, Carlo? Dobbiamo rivedere il regolamento. Dobbiamo sentire cosa dice il notaio. Qualcuno, Carla, ci scrive un messaggio dicendo: buongiorno, allora diciamo giornalisto. Così. Certo, e infatti su Libero c'era uno che si chiamava il sentinello della lingua italiana. Esatto. Quello che ho capito è che tutto è possibile, certo. Tutto si può fare, la lingua italiana è malleabile, naturalmente bisogna trattarla con i guanti, con amore, con cura, e poi se le invenzioni linguistiche prendono piede, tipo nostalgioso del Papa, allora possono diventare come Petaloso delle vere e proprie parole. Grazie Marazzini. Grazie mille. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Allora andiamo con Stefano che chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccolo qua. Allora, io torno con un anglicismo con Rockstar. Il 2016 ci ha purtroppo tolto tantissime stelle del firmamento della musica. E quindi Rockstar, per ricordarli tutti insieme. Va bene, ci sta. Stefano. Beh, è buono anche che scelga la parte Rockstar invece che la parte triste mietitrice. Sarebbe stato un po' più affliggente. Anche giustamente, noi la stiamo ancora attendendo, quindi non stiamo a prenderla in giro. Molto bene, Rockstar. Grazie, Stefano. Grazie. È stato un anno terribile. Alla fine del 2016, tutte le Rockstar stavano chiuse in casa, barricate, sperando che non gli accadesse niente. Maria, dalla provincia di Viterbo, da Viterbo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io la vedevo in senso negativo la parola dell'anno. Cioè, più che parola è una locuzione, piuttosto che ha avuto la vinta sulla lingua italiana. Ma questa vale però, Maria, vale anche per il 2015, per il 2014, sono tanti anni che il piuttosto che è usato in quel senso lì. C'è una confusione in chi ascolta. mi sono scandalizzata che anche persone che stimo moltissimo, come Saviano, come Lucia Annunziata, come Antonio Campo Dall'Orto, l'hanno usata così. Andando contro magari le indicazioni da Sant'Agostino, ancora Tullio De Mauro stesso, che dicono che i comunicatori, i giornalisti, gli scrittori devono essere chiari, devono tenere conto di chi ascolta. Quando mi dicono mangi la mela piuttosto che la banana, Allora io dico, ma che devo mangiare, la mela o la banana? Oppure nei programmi di cucina, due cucchiai d'olio piuttosto che una noce di burro, ma che significa? Ecco, generano confusione e ci si fanno cioè come se fosse è una moda. Va bene Maria, però noi la iscriviamo assolutamente al nostro concorso, anche se con una espressione che non è una parola ma è un'espressione, e che lei vorrebbe che in qualche modo non rivedere più in giro, e ha la nostra comprensione, perché poi un conto è inventare delle parole come ha fatto Mentana con Webet, un conto è usare male le parole che ci sono rispetto a quello che è la grammatica, e quindi lì si incade in un vero e proprio errore. Marisa da Trento, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, la parola che ho pensato stamattina scendendo in macchina e ascoltandovi è bisestiloso. Bisestiloso, in quanto il 2016 è stato bisestile. Bisestile è stata una tarambata sui denti per tanti. Ed è stato l'anno di Petaloso, quindi è una frase molto molto bella, l'accettiamo, la iscriviamo nelle parole da scegliere. Diciamo Perfetto. Che più che una parola molto utilizzata o che possa in qualche modo essere una sintesi, è una sintesi fatta da lei, ecco, questo sì, quindi c'è anche della creatività. Brava Marisa, grazie, complimenti. Grazie a voi, buona giornata. E vabbè, poi da qui alla fine della puntata estrarremo dallo scatolone delle vostre risposte, avete ancora tempo per fornircene delle altre, e quella che più ci avrà convinto vincerà i biglietti per la mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. Adesso ci fermiamo, 800 24 00 24, tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, cari ascoltatori, questa è la sigla di Crowd Me Up, la musica che ormai riconoscete, lo spazio nel quale sabato mattina vi proponiamo da un po' di tempo a questa parte ogni volta due progetti, almeno due progetti che cercano il nostro aiuto, progetti di finanziamento dal basso, crowdfunding, e lo facciamo in collaborazione con la piattaforma Eppela, ed è con noi il project leader di Eppela, Francesco Di Candio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vogliamo fare un po' il punto su questa nostra rubrica, questo spazio nel quale abbiamo dato voce, visibilità a tanti progetti che sono spesso progetti sociali, ma anche progetti imprenditoriali che cercano in qualche modo di aggirare le porte chiuse ricevute spesso magari da finanziatori istituzionali, banche o quant'altro. Prima di arrivare a questo però vogliamo cominciare con una buona notizia, perché sappiamo, ce l'avete detto voi, avete fatto anche voi il vostro bilancio, che i progetti legati alle emergenze come il terremoto e le alluvioni, i progetti di solidarietà, sono andati a buon fine, c'è stata grande partecipazione da parte di molte concittadini generosi e generose, vero? Assolutamente sì, i progetti di questo genere hanno raggiunto sempre successo, ma anche perché comunque l'obiettivo non è quello di raggiungere sempre delle cifre alte, infatti noi abbiamo sempre consigliato di mettere ai progettisti, se vogliamo così chiamarli, delle cifre molto basse, in maniera tale che fosse anche possibile realizzare il progetto. Anche perché ricordiamo che uno dei meccanismi del crowdfunding è che se non viene raggiunta la soglia richiesta, che succede? Non arrivano i soldi rimangono ai sostenitori, e quindi il progetto poi non viene realizzato. E in questo caso noi abbiamo sempre voluto dare il 100% della possibilità di successo al progettista e al progetto, e questo è permesso mettendo appunto un target molto basso. Dalla generosità alla solidarietà vogliamo fare un passo in là verso i progetti sociali, progetti di imprenditoria sociale o anche proprio progetti che hanno uno sfondo sociale, che quindi non nascono in nessun modo anche a scopo di lucro come obiettivi imprenditoriali. Anche in questo caso le voglio chiedere com'è andata e se ci vuole ricordare alcuni di questi progetti, o vuole anche le linee di tendenza di tutto questo universo che si muove e che il crowdfunding, la piattaforma Eppela, riesce in qualche modo a descrivere. Allora, i progetti di carattere sociale sono veramente molto divertenti, perché sono tantissimi tipi di progetti. Si va dalla creazione di un fan film sulla base di Star Wars, che è stato fatto lanciato l'anno scorso a fine ottobre, durante Luca Comics, e che ha raggiunto 12.000 euro di risultato su 10.000 che ne cercava. È fatta da un'associazione di Ravenna, da una onlus, da una no profit, e si va a progetti invece dove si vanno a cercare fondi per sostenere i clown dottori negli ospedali. Quindi comunque ci sono tantissimi generi di progettualità lanciati da enti no profit. Nell'ultimo anno abbiamo visto avvicinarsi tantissimo quello che è il mondo delle fondazioni di origine bancaria, che sostengono già di per sé, per loro mission, tutti i progetti di carattere no profit, sì, e si sono avvicinati a quello che è lo strumento del crowdfunding. Quindi comunque diciamo che si tengono al passo con i tempi e utilizzano Apple come strumento per arrivare a un pubblico molto più ampio, mettendo in maniera meritocratica progetti, premiando in maniera meritocratica progetti che sono voluti dalla comunità, perché comunque tutti i progetti di carattere sociale sono sempre legati al proprio territorio, questo non bisogna dimenticarlo. Certo. Quindi è difficile che un'associazione di Milano venga sostenuta da un sostenitore che abbia un sostenitore di Crotone. Cioè, e quindi rimane circoscritto solitamente al territorio. Salendo nella scala, diciamo così, del livello di crowdfunding, dalla solidarietà, abbiamo detto, a progetti sociali, ha una vera e propria forma di imprenditoria. Sono tante le startup che avete cercato di lanciare e che state lanciando. In questo caso, io ho detto, spesso possono essere anche progetti che hanno ricevuto dei no da parte di banche o da altri finanziatori istituzionali. In altri casi può essere un modo il crowdfunding anche così, una scelta voluta, dichiarata da parte di queste startup, di affrontare il mercato in un modo nuovo? Assolutamente sì, perché non dimentichiamo che lanciare un progetto in crowdfunding non viene fatto oggigiorno solo e unicamente per raccogliere fondi, ma è proprio un'operazione di comunicazione alternativa, perché se io dovessi seguire un filone logico classico, un iter classico, io produco, quindi investo dei soldi in comunicazione, faccio conoscere il mio prodotto che ho già prodotto e cerco di distribuirlo. Io invece in questa maniera lancio un prodotto che ancora non ho in produzione, lo mostro, vedo quello che è il riscontro con quello che è il mio cliente finale, l'utente finale che è il mio cliente. Nel momento che raggiungo determinati obiettivi decido di metterlo in produzione, e ottenendo quello che poi è un coinvolgimento della massa, della folla, quindi appunto del crowd. Non più facendo quello che è il classico test di prodotto, pagando le persone, mettendole in una stanza di fronte a dei mock-up, sì, ma chiedendo direttamente dei soldi. Che è l'esatto contrario, diciamo, di fare un test, ma addirittura di chiedere un anticipo. Io infatti le volevo fare una domanda che forse è stupida, perché ho sempre questo dubbio nel momento che ci sono i crowdfunding invece più di quest'ultimo tipo, quindi legati a un business. Mi chiedo se in realtà, quando leggo le ricompense, che uno dice ti diamo il CD oppure ti diamo il prodotto, se non sarebbe quasi da dare un'azione di questa società, perché in qualche modo è qualcuno che si mette e dice va bene, io investo perché credo in questo prodotto e se il prodotto vende molto vorrei guadagnarci. Beh, ci sono due tipi, cioè in realtà ci sono molti tipi di crowdfunding. Certo. Quello di cui stai parlando è crowdfunding di tipo equity, quindi dove io in cambio di una parte di denaro ho una percentuale della società. Noi siamo una piattaforma invece reward, dove non obblighiamo la persona a legarsi a un brand, perché comunque stiamo parlando di un oggetto, di un CD appunto, non, certo, è detto che io debba sposare in tutto e per tutto la filosofia del gruppo. Certo. In cambio ho direttamente il prodotto, quindi, certo, se mi piace quello che hanno fatto io posso ottenere quello che il prodotto, magari a un prezzo scontato, esattamente, a un prezzo di lancio, a un prezzo promozionale, a un prezzo che non troverei nei negozi una volta che entra in produzione il prodotto. Esattamente. È molto chiaro. Poi posso aggiungere, il crowdfunding è nato come metodo per appunto staccarsi da quello che erano le logiche delle banche, perché oggi un giovane che va a chiedere 10.000 euro, magari qualche anno fa quando è nato il crowdfunding, un giovane quando andava a chiedere 10.000 euro a una banca, a meno che non avesse 10.000 euro da parte o un genitore che facesse una firma a garanzia, la banca non dava 10.000 euro, ma non per comprare la macchina o andare a fare il viaggio, ma proprio per quello che è l'idea imprenditoriale. Il crowdfunding è venuto in soccorso, diciamo, a questo sistema, dando la possibilità di lanciare la propria idea e scavalcare la banca. E poi magari immagino un domani andare in banca e dire: guarda, il mio progetto di crowdfunding ha avuto successo, ci sono persone che credono in me, a questo punto manca solo la banca e che faccia anche la sua parte. Esattamente, perché c'è un distacco iniziale, poi successivamente si è venuto a creare questo che è, diciamo, un miglioramento del ranking dell'utente, dove io appunto posso andare in banca e dire: io sono riuscito a raccogliere 10.000 euro. E speriamo che sia proprio 5.000? Così. Ma ci sono già vari casi, noi sappiamo già di vari casi dove comunque le banche si sono messe poi a far credito a progetti che sono stati lanciati sulla nostra piattaforma. Anche perché sappiamo che tanti soldi sono stati dati a, possiamo dirlo, a vanvera, uso una bella parola anch'io del 2016, in tante situazioni riguarda la crisi di tante banche. Ecco, magari piccoli finanziamenti a piccoli progetti imprenditoriali potrebbero essere e sarebbero la funzione originaria dell'istituto bancario. Grazie per essere stato con noi, di Francesco Di Candio, Project Leader di Eppela, con grazie la rubrica mille. Ci risentiamo grazie sabato prossimo, riprenderemo a presentarvi ogni settimana un paio di questi progetti. Andiamo, eccolo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. La risentiremo sabato prossimo. Intanto riprendiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Chiara che chiama da Milano. Buongiorno, Chiara. Buongiorno. Buongiorno. Sì, la mia parola è trampismo. Trampismo? È trampismo, sì, viene utilizzata abbastanza spesso per fare sintesi di quello che sta accadendo in Europa e negli Stati Uniti. Cioè lei ha sentito Marazzini dire che non si possono usare nomi propri, Trump, e quindi furbamente ha preso da Trump il trampismo e ne ha fatto un nome, così può concorrere anche lei al nostro concorso di oggi. Ottimo. Ma viene abbastanza usato. Il trampismo. Certo. Che cosa starebbe a significare, oltre Trump, il trampismo? Il trampismo è proprio un po' la sintesi di quello che sta accadendo nella chiusura un po' degli Stati Uniti e dell'Europa, un po' racchiude anche la Brexit, l'idea di chiudersi un po' nel proprio mondo, di restringere i confini e anche del pensiero. Un sinonimo di protezionismo, di chiusura, di isolamento, trampismo. Eccetto. Perfetto. Ma è un po'. Sì, sì, sì. Prego, sì, Chiara. Sì. Sintesi, esattamente quello che sta accadendo. Sì, giusto, sì, giusto, che ci la serve. Iscriviamo, grazie mille. Iscriviamo assolutamente al nostro concorso di oggi, così come partecipa anche Andrea dalla provincia di Treviso. Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buon anno. Buongiorno, buon anno. Niente, io volevo proporre una parola, anche se in realtà non è una bella parola, la parola è terrorismo, perché ha un po' segnato l'andamento di quest'anno. In realtà spero che la parola non vinca, e anzi che vinca qualcos'altro, o Webit o trampismo o qualsiasi cosa, e dimenticare questa parola. Comunque non stiamo cercando parole belle, effettivamente è sicuramente una parola che ha segnato il 2016, quindi è assolutamente iscritta. Grazie. Okay. Poi Andrea, prima anche sentendo il progetto di crowdfunding, quest'anno anche la parola banche o bail-in o qualcosa del genere sarebbero state molto appropriate. Comunque, insomma, no, non parole propriamente simpatiche in questa però scegli di partecipare con la parola terrorismo. Okay. Questa è la sintesi. Perfetto, Andrea, grazie. Andrea, abbiamo bisogno di una parola. Adesso andiamo avanti ancora un po' e poi estrarremo la parola del 2016 che ci è piaciuta di più: traffico. Si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo appena finito di parlare con Apple e abbiamo qua con noi una startup, il rappresentante di una di queste startup che manco a farla apposta, si chiama Underground Power App e l'abbiamo proprio voluto introdurre con questa app and app dei Coldplay. Ecco noi Piero Pirisi, responsabile marketing di App. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Allora, per parlare di un progetto che dovrebbe diventare realtà a Concorezzo, nel comune Brianzolo, dove per primi in Italia sperimenteranno una vostra tecnologia, come si chiama questa tecnologia innovativa che sfrutta il rallentamento delle auto sulla strada? Allora, noi questo sono piattaforme modulari chiamate Libra. Praticamente siamo la prima startup che riesce a recuperare questa energia elettrica dal traffico cittadino. E queste piattaforme rallentano il veicolo, sì, quando si passa sopra, e siamo in grado di convertire la loro energia cinetica in energia elettrica. Praticamente quando passa sopra la piattaforma i veicoli vengono rallentati di circa 10 km e quindi danno una maggiore sicurezza stradale. Riusciamo a convertire questa energia cinetica in energia elettrica, quindi facciamo un recupero energetico e poi diamo questa energia a un utilizzatore finale connesso con un inverter standard e questa energia la può avere comprando il nostro impianto o utilizzando l'energia comprando l'energia. Certo, ma com'è che rallentate il veicolo? Allora, sotto a questa piattaforma ci sono delle liste che vengono con la pressione dell'auto abbassate di 2-3 cm e fanno un effetto avvolgente lungo la ruota. E questo produce questo rallentamento. Ah, perché io avevo capito che fosse durante la frenata che il veicolo dovesse di per sé frenare, nel senso, no, che deve frenare perché c'è un dosso piuttosto che un indicatore di rallentamento, invece no, no, questo no, sono loro che li fanno frenare. No, siamo noi che rallentiamo, praticamente l'utente non si accorge, quando passa sopra questa piattaforma si sente rallentare. Perché proprio è l'impianto che fa così risparmio anche sulle pastiglie dei freni. Però è molto capito diverso. Bene che lo volete applicare in prossimità di luoghi dove certo. si rallenta, tipo dove all'ingresso dei parcheggi o cose di questo genere. Sì, diciamo in qualsiasi corsia di decelerazione, che può essere prima di una rotonda, prima di un passaggio pedonale, dove c'è il rallentamento, c'è la strada è naturale che impone proprio, sì, rallentamento, quindi noi aiutiamo a rallentare e da lì recuperiamo questa energia cinetica trasformandola in energia elettrica. Ecco, è a Concorezzo che sarà la prima applicazione in un, sì, comune italiano di questa vostra tecnologia. Che tipo di applicazione, che tipo di situazione andrete a fare? Allora, noi riusciamo adesso a installare a concorrenza su strada pubblica, sì, dopo 2 anni che abbiamo fatto una installazione presso un centro commerciale in provincia di Milano, dove abbiamo fatto tutte le nostre prove, i nostri test, che ci aveva richiesto il Ministero dei Trasporti, e a seguito di tutti questi test di resistenza, di sicurezza anche per i pedoni, ciclisti, ambulanze, ora siamo autorizzati dal Ministero proprio a fare una sperimentazione anche su strada pubblica, e quindi in primavera faremo le 2 prime installazioni in questo comune. E noi avevamo già avuto molto interesse da parte di diversi comuni alla nostra tecnologia, ma il sindaco di Concorrezzo si è dimostrato il primo, più attivo, il più veloce. Ma scusi, tutti a Concorrezzo a frenare, ma uno può anche mettersela a casa privatamente, uno di queste di questi dispositivi, tipo, certo, è un corridoio molto lungo, no, ma tipo sul dialetto di casa, io mi immagino magari se uno ha una casa con il giardino, sul dialetto di casa, così tutte le volte che arriva la suocera uno gli ruba, praticamente la suocera mette un sacco di benzina, tu gli rubi tutte le volte che lei arriva, lei rallenta moltissimo e tu ti accendi la luce del box. Diciamo che ha bisogno di un certo passaggio pedonale giornaliero perché questo impianto, questa energia che produce sia remunerativo. Ah, ecco. Per cui, una suocera non basta, bisogna avere tante suocere. Ecco. un centinaio di suocere. In una zona dove la vanno a trovare molte persone. Esatto, perfetto. E quindi, noi questa installazione ne faremo 2, prima di una rotonda, una in un senso e l'altra nell'altro, e questi impianti poi non sono lunghi 3,5 metri, e questa energia verrà acquistata da una Energy Service Company che li noleggerà a delle attività commerciali che sono vicine agli impianti. Certo, energia a chilometro zero. Quanto è in grado di produrre un impianto come questo? Quindi la domanda che tutti si fanno è quanto tiro su? Allora, diciamo che ci vuole una strada con almeno 9-10.000 passaggi giornalieri al giorno, e con un impianto di 2 moduli, che è il più piccolo che noi facciamo, produce 20.000 kWh all'anno, con un risparmio di CO2 di circa 14 tonnellate, e ogni impianto dà energia quindi per circa 8 famiglie. In questa maniera si ha un costo dell'impianto, un ritorno economico vantaggioso rispetto alle tariffe energetiche che ci sono sul mercato. Costa certo. Molto il vostro impianto? L'investimento iniziale è molto costoso? No, diciamo che è un investimento che con i passaggi che vi ho detto ha un ritorno in 7 anni, quindi paga l'energia qualche centesimo meno di quella che normalmente si paga, e questo noi adesso siamo all'inizio, siamo ancora in una fase, diciamo, di produzione artigianale. Quindi in realtà costerà probabilmente meno a un certo punto, e uno riuscirà a recuperare in un po' meno di 7 Speriamo anni. Speriamo che i costi si possano abbattere. Assolutamente questo. Sì. Perché mi metto nei panni di un piccolo comune che può essere interessato a fare quello che ha fatto Concorrezzo. Soprattutto perché in 7 anni esatto. C'è una nuova legislatura, e di solito sono delle nuove elezioni, quindi i sindaci sono più interessati a cose che si recuperano in meno di 4, Bravo, meno di 5. Fate un business plan per stare dentro i 4 anni, se no non e ce la facciamo. Perfetto. Di un anno è previsto di avere un rientro di quella portata. Grazie Piero Pirisi. Grazie mille. Vi raccomando, a marzo, aprile, in primavera, insomma, quando faremo l'inaugurazione dell'installazione, vi vorrei invitare per farvi vedere tutto il progetto. Molto molto Siete volentieri. Invitati. Perfetto. Io non ho la patente, ma vengo in bicicletta, ma freno moltissimo. Bravo, anch'io a piedi. Milano ci accoglie, abbraccia, concerto e un mezzo sorriso d'Europa. Bologna nel cuore, una vecchia stazione, canzoni d'amore del dopo. Venezia che affonda, bellezza che abbonda, abbonda Torino il mistero. In centro a Firenze una tipa che danza e celebra la primavera. un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. Un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Made in Italy di Ligabue, è una canzone che ci è stata suggerita da Dante da Verona, perché a Si può fare parliamo spesso di Made in Italy. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare musica, se siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di mandarcela, di modo che noi la mandiamo in onda e la mettiamo sulla nostra pagina Facebook. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica alla nostra mail Si può fare @radio24.it oppure sui nostri profili Facebook Si può fare /radio24 o Twitter @si può fare24 oppure sui nostri account Twitter personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Allora abbiamo ancora un pochino di tempo per sentire qualche ascoltatore. Aurora da Milano, vai. Sì, buongiorno. Buongiorno Aurora, prego. Allora, la parola che si è sentita tanto quest'anno è stata populismo, però non vorrei sentirla soltanto con un po' di espressione negativa che ha preso ultimamente, come la chiusura, trumpismo, cose del genere, ma vederla un attimino in modo positivo, visto l'anno difficile, come era nata in realtà l'idea di aiutare le classi più diseredate, per cui il popolo che si ritrova, che si riunisce, che difende... Il populismo, il popolo che prende la parola o le elite che si interessano del popolo? O le elite che si interessano del popolo, esattamente, per cui vorrei vederla... Sì, prego. Certo! Ecco, con un'eccezione positiva, non soltanto come se ne è parlato durante il 2016, come un fatto un po' negativo, politicizzato. Va benissimo. Diciamo, allora, quindi Aurora ci lasci in eredità dal 2016 una parola che è anche un auspicio che venga utilizzata non necessariamente in termini negativi. Direi che di altre telefonate non possiamo sentirne, quindi gli ascoltatori in linea, mi spiace, ma non c'è tempo. E allora... Premiamo, estraiamo a sorte... Ma non a sorte, siamo... Estraiamo dal insindacabile giudizio della nostra giuria. Abbiamo scelto la parola webete e ce la segnala l'ascoltatore che adesso mi avete tolto dall'intranet, non importa, lui lo sa, Lorenzo da Firenze, il neologismo che anche ha amato l'Accademia della Crusca. Bravo, ti porti a casa i biglietti del MUDEC di Milano. A tutto, noi ci sentiamo domani con una puntata registrata. Grazie Andrea Piana, Claudia Schiattone, Peter Bescapè, regia. Ciao da Alessio Maurizzi e da Carlo Gabardini.